Bologna e dintorni. Come va il mondo? Sabato 16 novembre, puntata numero 8 per Bologna e dintorni. Io sono Alessandro Albana. Dunque, gli Stati Uniti hanno eletto il loro 47esimo presidente e il 20 gennaio del 2025 Donald Trump tornerà alla Casa Bianca dopo 4 anni. Lunga e tormentata è stata la campagna elettorale e anche ricca di colpi di scena. L'economia è stato sicuramente l'argomento più battuto, in particolare l'inflazione e la perdita del potere d'acquisto da parte degli statunitensi. A occupare il dibattito politico ci sono stati però anche altri temi, a cominciare dall'aborto, che negli ultimi mesi è diventato di fatto un diritto negato in molti stati USA. C'è poi il tema dell'immigrazione, su cui sia i repubblicani che i democratici hanno mostrato un approccio radicale e intransigente. Il piano internazionale, infine. Tra il 2020 e il 2024 Trump non ha fatto mistero della sua totale imprevedibilità. Molte sono le crisi aperte in uno scenario globale che potremmo definire come minimo instabile. C'è il Medio Oriente con la guerra a Gaza e l'Iran. Le relazioni transatlantiche, Trump sarebbe pronto a imporre dazi alle importazioni dall'Europa. E poi la guerra in Ucraina e le relazioni con Russia e Cina. Intanto in questi giorni sono arrivate le prime nomine dei membri, dei componenti del governo di Donald Trump. Di questo e di tanto altro parleremo nella puntata di oggi dopo una breve pausa musicale. A tra pochissimo. Men walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire in the bridge. Shelter line stretching round the corner. Welcome to the new world order. Sleeping in the car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight. But nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of time travel. Prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a button and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass. Got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock. Bathing in the city aqueduct. The highway is alive tonight. Where it's headed, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire line. Waiting on the ghost of time travel. Looking in the eyes, mom, you'll see me. The highway is alive tonight. highway is alive tonight. But nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire light with a ghost of old time Joe. ...1995 Bruce Springsteen con The Ghost of Tom Joad. Ormai lo sapete, Donald Trump sarà presidente degli Stati Uniti per la seconda volta. Dalle elezioni sono passati ormai 10 giorni, ci siamo presi un po' di tempo, ma per farci perdonare per la puntata di oggi avremo ben due ospiti. Si tratta di Alessia Gasparini, comunicatrice digitale dal 2018, collaboratrice della rivista Left e autrice della newsletter su politica e cultura statunitense Caffè Americano. Insieme ad Alessia c'è Eric Gadd, analista politico e content creator. E Alessia ed Eric sono i fondatori di The Union, progetto multimediale su politica, attualità, storia e cultura negli Stati Uniti. Buongiorno Alessia e buongiorno Eric. Buongiorno Alessandro, buongiorno agli ascoltatori. Anche da parte mia. Dunque, il successo di Donald Trump e dei repubblicani, al contempo la disfatta di Kamala Harris e dei democratici. Che cosa è successo nella campagna elettorale per la Casa Bianca e che cosa ci dice l'analisi del voto negli Stati Uniti? Che cosa non è successo durante questa campagna elettorale, diciamo? Perché eravamo partiti che i candidati erano altri. Cioè eravamo partiti che la corsa sarebbe dovuta essere Donald Trump contro Joe Biden. Invece poi a sorpresa, a 2 mesi e mezzo circa dalle elezioni, cambio di programma e Biden non è più il candidato. Chi è il candidato? Kamala Harris, la sua vice. Per tutta una serie di motivazioni, non solo politiche, anche pratiche, c'erano già stati raccolti dei soldi con le raccolte fondi, quindi diciamo cambio in corsa. È uno scenario abbastanza inedito. Kamala Harris si è trovata solo 2 mesi per fare campagna elettorale. Non sono bastati a quanto pare. Una delle critiche che gli è stata mossa di più è stata che non è stata chiara sul suo programma, troppa continuità con Joe Biden, mentre Donald Trump è Donald Trump, quindi non c'era molto da dover pubblicizzare. Si sa cosa pensa e si sa che tipo è. E poi la cosa per certi versi sorprendente, nonostante tutti i processi, il primo ex presidente condannato, comunque la rivolta del 6 gennaio che probabilmente è stata fomentata dalle sue parole quando stava per lasciare la Casa Bianca, nonostante tutto questo ha fatto sì che Trump prendesse più voti rispetto al 2020, sono già 1 milione e rotti in più rispetto alle scorse elezioni, e questo ci dice di come è migliorato anche in alcuni segmenti della popolazione, soprattutto quella dei maschi, i maschi bianchi, i maschi latinos e questo, i maschi giovani, esatto Alessia, e questo è anche una cosa diversa rispetto alle elezioni passate, perché comunque i democratici andavano bene sia con le minoranze che con i giovani, mentre i maschi della generazione Z si stanno dimostrando un po' più conservatori per adesso. Questo non possiamo dire ancora che sia uno spostamento definitivo di queste fasce della popolazione verso Trump, perché è troppo presto, dobbiamo vedere nelle prossime elezioni che saranno midterm nel 2026 e anche poi nel 2028. Pare che sia una cosa molto legata al diritto alla casa, che è stato comunque anche un tema di queste elezioni, cioè che appunto i maschi della generazione Z sono molto preoccupati, non potranno comprarsi casa, non avere famiglia, e quindi questo potrebbe averli spostati, diciamo, verso Trump. Una cosa che io ho notato e che con cui ho intitolato anche la newsletter scritta subito dopo il giorno del voto è che a quanto pare negli Stati Uniti Donald Trump è meglio di una donna, perché quando Donald Trump corre contro una donna, Donald Trump vince. Se Donald Trump corre contro un uomo, seppur di misura, Joe Biden nel 2020 ce l'aveva fatta, perché ricordiamo che questo è il terzo tentativo, diciamo, di Donald Trump, il primo riuscito nel 2016 contro Hillary Clinton, il secondo fallito appunto nel 2020 con Joe Biden, e quest'anno con Kamala Harris è di nuovo vinto lui, quindi questo ci dice che forse non la vogliono una presidente donna negli Stati Uniti, perché è una strana casualità, diciamo, ecco. Oltre alla misoginia, secondo me uno dei fattori che hanno fatto sì che i democratici perdessero questa volta, secondo me, arriva un po' da lontano, dalle elezioni del 2020, perché comunque sapevamo che Biden era un candidato molto in là con gli anni, il più vecchio presidente a entrare in carica alla Casa Bianca, adesso superato da Trump, quando il prossimo 20 gennaio 2025. E quindi i democratici dicevano impostare un'operazione di lungo respiro, di ampio mandato, ossia dire ok, Biden ha vinto, è il nostro candidato, è il nostro nuovo presidente a 78 anni, ma noi ragioniamo già verso il 2024. Kamala Harris può essere la nostra candidata? Non lo sappiamo, vediamo come si comporta. Però dovevano vedere, trovare anche altri candidati alternativi se Kamala Harris non fosse andata bene. Invece si sono adagiati su Biden per un secondo mandato. Anche lo stesso Biden si è convinto a essere l'unico in grado di battere Trump, e così la frittata è stata fatta. E i democratici hanno perso di nuovo il Senato e hanno riperso probabilmente la Camera. E, diciamo che dal punto di vista dei gruppi democratici, per quello che si sa ancora adesso, e comunque non ci sono state tutte le analisi, però l'unico gruppo demografico che si muove compatto e senza alcun dubbio sono le donne nere. Le donne nere hanno votato, per i dati che ho letto io, mi sembra fossero di, diciamo, una 92%. Sì, una delle emittenti più grandi statunitensi, erano per il 92% hanno votato democratico, è la fetta più compatta, diciamo, dell'elettorato. Abbiamo visto a Chicago, dove siamo stati per seguire la convention democratica, e dove abbiamo seguito il discorso di accettazione alla nomination di Kamala Harris allo stadio del football di Chicago, dove era riempito per la quasi totalità da donne afroamericane in estasi per la candidata democratica. È stata un'esperienza interessante. Sì, quello della popolazione latina è il trend, diciamo, da seguire, perché sì, c'era sempre stata una fetta di latinos che votava repubblicano, che erano i figli degli esuli cubani, però comunque era appunto una fetta precisa. Invece in queste elezioni c'è stato, nonostante le uscite infelici al comizio di chiusura di Donald Trump su Porto Rico, fatte dal comico che disse Porto Rico è un'isola galleggiante di spazzatura, questo non li ha fermati dal votare comunque, cioè non ha fermato i latinos dal votare Donald Trump. Lunga e complessa e ricca di argomenti è stata naturalmente la campagna elettorale. Le posizioni di Trump sono piuttosto nette, lo sappiamo. Alla luce di questa premessa, che cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima amministrazione statunitense in tema di politica interna? Quali saranno le priorità e quale approccio guiderà la presidenza Trump? Diciamo che sicuramente non saranno i diritti il tema principale di questa nuova amministrazione Trump. L'economia è un tema che è andato molto e che va molto durante le campagne elettorali. Trump ha vissuto di un ricordo che l'ha riabilitato agli occhi degli elettori, ossia che quando c'era Trump tra il 2016 e il 2020 l'economia andava meglio. Cosa che però durante la campagna elettorale Obama ha stroncato dicendo no, Trump aveva una buona economia perché quella era la mia economia, ha vissuto di rendita. L'amministrazione di Biden ha pagato il fatto che comunque l'inflazione è cresciuta, ma Biden arrivava anche in un periodo, in un momento storico, diciamo, catastrofico, in piena pandemia. Poi subito dopo la pandemia è scoppiata la guerra in Ucraina, adesso più recentemente, ormai è passato più di un anno, il conflitto in Medio Oriente, partito da Gaza e poi si è allargato al Libano. Questo ha influito negativamente sulla percezione dell'economia dell'amministrazione Biden. È una percezione, appunto, il problema è proprio questo, sì. Perché l'economia non va così male. No, anzi. Cioè, l'inflazione anche non va così male, il problema è che costa tutto tanto. E si è creato una sorta di effetto epoca d'oro, quello del film Midnight in Paris, cioè tutti quanti vorrebbero tornare a come si stava bene nel 2019 prima del Covid, il che non è possibile dal punto di vista economico, cioè si tratterebbe di deflazione, che è una cosa brutta. Adesso io non entro nei dettagli perché non è questa la sede, ma se lo cercate è una cosa brutta. Quando è successa, dopo la prima guerra mondiale, c'è stata la crisi economica, quindi, ma è questo quello che in realtà vorrebbero gli americani, cioè tornare alla situazione precedente al Covid, che non è una cosa realisticamente possibile dal punto di vista pratico. E poi c'è l'inflazione, ma comunque gli stipendi negli Stati Uniti crescono, ma anche in maniera molto più elevata rispetto all'Europa. Comunque c'è l'inflazione, ma crescono conseguentemente i salari. Quindi comunque è una questione di percezione e anche di cattiva comunicazione da parte dell'amministrazione Biden, che non è riuscita comunque a far vedere i risultati positivi del loro operato. Diciamo che il tema principale dei democratici e soprattutto di Kamala Harris è stato il diritto all'aborto, che per carità è stato fondamentale e è una delle cose che verrà più intaccata durante i prossimi 4 anni probabilmente. Però questo poi non si è rivelata una strategia vincente, perché se è vero che ha mobilitato magari tante donne che non si possono permettere di andare ad abortire in un altro stato se nel loro è illegale, ha anche allontanato tutta quella parte di donne bianche di religione soprattutto cattolica, ma comunque cristiana, credenti, che sono contrarie all'aborto, e a quanto pare non c'è stata quella cosa di dire io non lo farei, però voglio proteggere il diritto di chi lo farebbe. Anzi, una delle motivazioni che sono uscite di più negli exit poll, nelle persone intervistate subito fuori dai seggi che hanno detto di aver votato Trump, è stato perché io sono religioso e Trump crede in Dio e quindi mi sento rappresentato da questo punto di vista, o rappresentata. E poi c'è stato il tema dell'immigrazione, che anche quello sarà centrale per i prossimi anni. E vedremo come verrà affrontato da Trump. Esatto, perché comunque sulle immigrazioni entrambi i candidati hanno delle posizioni non particolarmente morbide, perché comunque anche Kamala Harris aveva detto sì, però rinforzeremo la sicurezza al confine, non è che aveva una posizione molto permissiva dal punto di vista dell'immigrazione. Trump da questo punto di vista è estremista a livelli di parlare anche di deportazioni, quindi... Infatti ha detto in campagna elettorale che faranno la più grande opera di deportazione mai vista nella storia degli Stati Uniti. Esatto, per cui diciamo che in politica interna i problemi principali probabilmente saranno questi. Secondo me un altro tema che potrebbe spuntare, non so se Eric è d'accordo, è l'autonomia degli stati. Essendo un tipo di presidenza, diciamo, un po' particolare, con personaggi anche particolari, iniziano ad uscire i primi nomi, potrebbe secondo me esserci anche delle richieste di autonomia di qualche stato che gradirebbe un po' più di lassismo da parte di Washington, però questa è una mia idea. Se qualcuno vuole fare delle richieste, forse Trump è il presidente giusto, vedremo. Insomma, tra autonomia e deportazione dei migranti potremmo invitare Trump in Europa a prendere qualche lezione probabilmente, no? Sì. A proposito di Europa, mi sposterei adesso sul versante internazionale. I dossier sul tavolo dell'amministrazione Trump sono tanti e sono delicati. Lo scenario internazionale vive un periodo di forte instabilità e di forte crisi. Anche qui i teatri sono parecchi e parecchio delicati. Che carattere avrà la politica estera di Washington nella seconda era Trump? Possiamo dire che sull'Europa gli Stati Uniti ormai non è che hanno grande attenzione, si vorrebbero quanto più disimpegnare dal vecchio continente europeo. Diciamo che forse ci saranno dei continui, forse contrasti sui social, soprattutto su X da parte di Elon Musk, che già ha cominciato a fare ingerenze in questi giorni col governo, anzi con i giudici italiani, e per fortuna è intervenuto Mattarella per difendere la nostra sovranità, che in questo caso la sovranità ci piace come parola anziché sovranismo. Musk, che comunque è stato nominato insieme a Vivek Ramaswamy a capo della nuova del nuovo dipartimento per l'efficienza governativa, che fa il DOGE, che come acronimo, che dovrà, diciamo, fare un'opera di spending review. Con un comunicato stampa, tra l'altro drammatico, in cui Trump parla del nuovo progetto Manhattan. Io non so se lui si ricorda cos'era il progetto Manhattan, però diciamo non è proprio un'opera di copywriting pazzesca, ecco. Tra l'altro, diciamo, Elon Musk è un po' l'eminenza grigia di queste elezioni, cioè un personaggio che è apparso solo in alcune occasioni, però che vedremo spesso nei prossimi anni. E invece, come diceva poco fa Alessia, sui nomi che stanno già uscendo e che sono stati comunque anticipati da Trump per la sua nuova amministrazione, vediamo quali saranno le sue posizioni nei confronti della Cina, ma anche della guerra in Ucraina e del conflitto a Gaza e Medio Oriente. Ad esempio, ha scelto come nuovo segretario di Stato Marco Rubio, che è contrario a qualsiasi cessate il fuoco a Gaza, anzi è un strenuo sostenitore delle politiche di Netanyahu. Per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, ad aprile è stato uno dei 15 senatori repubblicani a non votare per un nuovo finanziamento di aiuti al governo di Kiev. Poi abbiamo anche il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale, Mike Waltz, da non confondere con Tim Waltz, ex candidato vicepresidente di Kamala Harris, che è un falco proprio contro la Cina. E secondo lui il Covid è stato proprio il virus generato dalla Cina, sì. E tra l'altro, oltre a questo, suggeriva agli Stati Uniti di non partecipare alle Olimpiadi invernali del 2022 che si sono svolte a Pechino. Voleva proprio un boicottaggio stile anni 80. E poi abbiamo anche la nuova ambasciatrice all'ONU, anche Elise Stefanik, che pure lei è a favore delle politiche di Israele, del governo Netanyahu. Per concludere adesso col nuovo... col pezzo forte. Sì, il nuovo ambasciatore che Trump nominerà a breve, che entrerà in carica quando Trump giurerà, ossia Mike Huckabee, ex governatore dell'Arkansas, che se non sbaglio era un pastore battista, adesso vado a memoria. Però la cosa interessante è che lui organizzava viaggi per gli americani in Israele. Comunque diciamo difficile a dirsi cosa farà Trump, perché poi alla fine il punto è sempre questo, non è solo il presidente a decidere, quindi appunto come diceva Eric, questa squadra che sta mettendo su ci fa presagire che la politica estera, ma in generale la sua politica, probabilmente non sarà a difesa degli oppressi. Questo insomma avrà delle ripercussioni anche di un certo livello. Certo è appunto che Trump se l'è sistemata molto meglio la questione dello staff per il suo secondo mandato, perché mentre nel primo c'erano state le persone che magari cercavano di contenerlo, limitarlo nelle sue proposte magari non proprio lineari o fattibilissime, adesso lui ha avuto proprio come obiettivo per tutta la campagna elettorale quello di scegliere delle persone che sono d'accordo con lui e che non lo contraddiranno, quindi lo appoggeranno praticamente in tutto e per tutto. Per non parlare del fatto che nei precedenti 4 anni c'è stata la sentenza della Corte Suprema che praticamente permette al presidente di avere poteri quasi sconfinati e di essere comunque protetto, diciamo, nelle sue decisioni. Quindi il panorama è un po' distopico. Vediamo se poi si avvererà la distopia o se sarà appunto un po' una cosa folcloristica con persone che organizzavano viaggi e quant'altro. A proposito di distopia, sono aumentati negli Stati Uniti la vendita di libri distopici. Sì, il racconto della cella è 1984, forse non l'hanno presa benissimo la notizia della vittoria di Trump. Rileviamo comunque che è aumentata la vendita di libri e questo ci può soltanto fare piacere. Alessia ed Eric, non abbiamo più tempo, io vi ringrazio per essere riusciti a condensare un po' il senso di questa amministrazione o di quello che si dipana di fronte a noi, lo scenario che ci aspetta per i prossimi anni. Sicuramente ci risentiremo prossimamente, tornerò a tormentare le vostre notti con le mie email per parlare, diciamo, con più evidenze alla mano di che cosa sta succedendo. Anche perché Trump è imprevedibile, come dicevamo prima, e quindi adesso andiamo un po' a tentoni, però quello che abbiamo visto ci può dare una previsione su quali saranno i prossimi mesi. Bene, allora avremo di nuovo occasione, speriamo. Grazie Alessia, grazie Eric. Grazie a voi. A tutti voi. Prima di chiudere vi ricordo che fino al 6 gennaio dovete aderire alla campagna abbonamenti di Radio Città Fucico, una città incontenibile. Trovate tutte le informazioni su www.radiocittafucico.it/abbonamenti e troverete noi altri in giro per Bologna e dintorni nelle prossime settimane per alcuni eventi in cui racconteremo e ci faremo raccontare alcune cose. Noi ci sentiamo sabato prossimo sempre alle 13.30 su Radio Città Fucico. Lasst euch ein wenig kontrollieren. Ich zeige euch, wie's richtig geht. Wir bilden einen lieben Reigen. Die Freiheit spielt auf allen Geigen. Musik kommt aus dem Weißen Haus. Und vor Paris steht Mickey Maus. We are. We're all living in